problema che abbiamo e che avremo probabilmente in futuro di scarsezza, non sarà una roba da epocale, però insomma il problema esiste e mostra una fragilità complessiva del sistema della quale forse bisognerebbe cominciare a interrogarsi. Ecco, quali sono appunto le varie componenti che possono creare questa crisi? Intanto abbiamo visto che in questa situazione la mobilità delle persone è ridotta anche per quelli che sono i lavoratori. In particolare noi siamo legati come sistema produttivo agroindustriale a manodopera a basso costo, tendenzialmente poco specializzata, e che eravamo abituati a prendere dall'estero. Erano forze lavoro che prima si muovevano apposta seguendo la stagione, quindi le necessità di lavorazione stagionali, e di fatto sostenevano un modello produttivo che era basato appunto sulla disponibilità di manodopera a basso prezzo. Questa adesso, in questa fase in cui per ridurre le possibilità di contagio la gente non viene lasciata muovere o non si sposta perché ha paura di contagiarsi, oppure in molti casi, in Spagna per esempio pare che sia successo questo, che molti braccianti marocchini sono tornati in Marocco prima che chiudessero la frontiera per evitare di rimanere chiusi. Si sono trovati e ci troviamo senza manodopera. Questo è un primo problema, è un primo ostacolo. L'altra cosa è che noi comunque siamo legati per l'approvvigionamento dei nostri supermercati e delle filiere lunghissime che hanno diversi punti possibili di stoccatura, e basta che ne salti uno per cui tutta la filiera finisce per bloccarsi. Dalla banalità, qualche giorno fa mi è stato detto di un produttore di uova che non riusciva a consegnare perché non gli venivano portati dai corrieri i cartoni per imballare le uova, che vuol dire una banalità, però questo ha di fatto impedito un flusso o rallentato un flusso che era assolutamente oliato, eccetera. I russi adesso stanno riducendo le esportazioni di grano, sono i più grandi esportatori di grano mondiale, e stanno riducendo le esportazioni di grano perché non sanno che cosa succederà domani. Cominciano a dire: beh, insomma, adesso un po' ce lo teniamo da parte perché vorremmo fare scorta, vediamo. No, dai, i Kazakistan la stessa cosa, eccetera. Ci sono diversi punti di strozzatura che rischiano, sia come fase di partenza che nei vari passaggi intermedi, di mettere in discussione la filiera e quindi di ridurre, rallentare gli approvvigionamenti. Quindi noi abbiamo messo in piedi un sistema che è lungi dall'essere quella garanzia che ci aspettavamo, eccetera, che siamo abituati a vedere, in realtà è fragilissimo. E in questa situazione che ruolo può svolgere invece l'agricoltura contadina? L'agricoltura di prossimità sarebbe una strategia fondamentale per garantire la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare dei territori. Noi siamo coccolati in questo mondo fatato della grande distribuzione, che è quella che è responsabile poi dei grandi disastri, in realtà anche dal punto di vista ecologico e anche sociale, della nostra salute. E noi abbiamo mollato questo modello perché era più importante far crescere il PIL che non la sicurezza alimentare, e ci siamo trovati con dipendenti da questo modello che appunto mostra quelle fragilità di cui si diceva prima. Invece bisognerebbe investire a questo punto, alla stragrande, su un'agricoltura di prossimità, di piccola scala, in grado di adattarsi velocemente a situazioni di stress e più in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Questo adesso le piccole reti sono chiaramente, come dire, insufficienti in questa fase qua, perché noi non siamo in grado di sostituirci ai volumi della grande distribuzione organizzata, però un pensiero strategico dovrebbe essere proprio quello di investire su questo modello, abbandonare progressivamente quello agroindustriale e ripensare il modello agricolo e alimentare basandolo su delle filiere locali, per la maggior parte perlomeno. Nello specifico Campi Aperti sta vivendo una situazione anche un po' di difficoltà perché le ordinanze chiudono i mercati. Voi avevate chiesto di riaprirli anche con tutte le disposizioni di sicurezza, ma vi è stato negato. Noi viviamo questo assurdo di una rincorsa all'ordinanza più restrittiva fatta da queste amministrazioni, che probabilmente prese un po' dalla sprovvista rispetto a dimostrano, no, di voler fare la cosa più eclatante o più garantista possibile, senza poi valutare, secondo me, con il tempo dovuto e con la freddezza necessaria, gli effetti reali del provvedimento. Per cui noi ci troviamo con le file fuori dai supermercati. fermati lunghe file, peraltro generano ansia queste file, perché poi l'effetto che provocano nella psicologia della gente è oddio, non c'è da mangiare. Quindi anche se in una situazione così già l'ansia monta, perché i media non aiutano su questa cosa nella maggior parte dei casi, in più ci troviamo di fronte a una manifestazione, no, del quotidiano nella nostra vita normale, che è quella dettata, no, dalle cose che facciamo quotidianamente, andare a fare la spesa, ci troviamo alla fila fuori al supermercato, lì qua è veramente l'apocalisse. E già questo secondo me andrebbe in qualche maniera valutato come effetto negativo di queste cose. In più l'aspetto che noi contestiamo è che non è poi così vero che dentro i negozi e i supermercati c'è una garanzia maggiore rispetto alle possibilità di contagio rispetto ai mercati all'aperto. Questo al di là delle misure, distanze di sicurezza. Pensiamo anche solo alle filiere che poi portano i prodotti in vendita. Se un produttore va al mercato, ha preso la lattuga la mattina in campo e la mette nella cesta del compratore al pomeriggio, l'ha toccata una persona sola. La lattuga che viene venduta al supermercato è stata raccolta dal produttore, messa in una cesta, portata da un trasportatore a un punto di raccolta del grossista, da lì portata al centro dove viene confezionata, lì viene confezionata, toccata da non si sa quante persone, portata al negozio viene presa un'altra, che l'ha messa sullo scaffale, quando è sullo scaffale viene spostata da 4-5 mani diverse per essere poi presa invece nel carrello. Allora, tutta questa filiera qua, della quale non sappiamo niente, in realtà sono punti di possibile contagio di quel prodotto lì, chiusi, dove c'è poco ricambio di aria, dove la gente spinge il carrello, sono centinaia che lo spingono tutti i giorni, dove appunto poi le confezioni vengono toccate, spostate, eccetera, le corsie sono più strette di un metro e sicuramente quando ci si è in due ci si avvicina meno di un metro di distanza e così via. Ci stupisce che queste riflessioni, anche banali, non siano state oggetto di, come dire, valutazione da parte di chi ha preso queste decisioni così drastiche di riduzione degli spazi, cioè di chiusura dei mercati. Dove voi vi state attrezzando ovviamente per una consegna a domicilio? Ho visto anche che avete allo studio un Tinder della Verza. Abbiamo fatto un primo tentativo che ha mostrato diversi problemi organizzativi e abbiamo dovuto sospendere per rimetterci in carreggiata noi come modello organizzativo interno. Adesso si stanno oliando i meccanismi e prima proposta è per semplificare la fase della consegna e ridurre il costo, perché è un costo sostanzioso quello dello spostarsi, sono ore di spostamento per le consegne. Proviamo a fare in modo che ci siano dei gruppi di vicinato, diciamo così, per cui nello stesso condominio invece di consegnare una sola ne consegniamo 5. No, questo è il concetto. Oppure a due porte vicino uno all'altro, consegniamo 5 cassette e uno si aggrega in modo che la consegna sia unica, riduciamo i giri da fare, riduciamo il consumo di carburante, riduciamo le ore e così via.